sa per a sé. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso diventi tutta. Se hai da tornar di là un ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Sole, un trono vicino alla sole, un trono.